Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo, per quello che riguarda il fronte internazionale, di una nuova offerta, non solo tiene banco infatti quella su Alstom, il gigante francese delle infrastrutture energetiche e dei trasporti, ma mi riferisco a due colossi della farmaceutica a livello mondiale. Da un lato Pfizer, che ha fatto un'offerta da quasi 100 miliardi di dollari, 98,7 miliardi, per la rivale AstraZeneca. Nascerebbe un colosso farmaceutico senza precedenti. Respinta l'offerta per ora dal consiglio di amministrazione di AstraZeneca, ma resta il tema delle fusioni. Il Financial Times fa notare che ormai si è tornati a un livello di fusioni come valore che non si vedeva dal 2007, cioè che ha raggiunto il picco del 2007, toccando nell'ultimo anno quota 1.200 miliardi di dollari. La differenza rispetto al 2007 è che si paga meno in contanti, diciamo cash, dal 76 al 47%, e si paga molto di più per queste operazioni in azioni, con uno scambio azionario. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. In apertura invece ci occuperemo dell'euro. Io l'ho detto già molte volte, ognuno può invitare chi vuole nei suoi programmi, ci mancherebbe. In questo programma certi teorici del no euro senza titoli non li inviterò mai. Mi interessa invece il punto di vista di un economista stimato, anche perché è un punto di vista non classicamente pro euro o contro euro. Mi riferisco a Luigi Zingales, che insegna a Chicago e soprattutto ha appena pubblicato un libro che si chiama Europa o no, Europa sì, Europa no. Perché? Perché Zingales non è né totalmente a favore dell'euro, per come lo stiamo conoscendo, io parlo più di Europa, di gestione dell'euro, che dell'euro stesso. Perché ripeto, se no si dà sempre l'idea che sia colpa del termometro su una febbre, ma della gestione dell'euro sì. E Zingales, dicevo, non è né a favore di questa gestione dell'euro, né però, diciamo, con un discorso semplicistico da cortocircuito, dice basta uscire dall'euro che risolviamo i nostri problemi, anche perché, come poi racconteremo, alcune ricadute sono assolutamente imponderabili, ma altre sono già certe. Faccio un esempio: i colossi industriali italiani, Eni, Enel, Telecom, Finmeccanica, hanno emesso ingenti quantitativi di debito, di obbligazioni di diritto estero, quindi valuta estera. Se noi uscissimo dall'euro, praticamente salterebbero per aria, perché devono essere ripagate in euro o in dollari. Tu ti becchi una lira svalutata rispetto all'euro, è chiaro che non ce la fai ripagare, e quindi sostanzialmente vai a far fallire i colossi industriali di questo paese. Però detto questo, il ragionamento di Zingales è più articolato, ecco perché lo invitiamo molto volentieri, perché non è una tifoseria tipica italiana da Guelfi, Ghibellini, Inter, Milan, Roma, Lazio, come se tutto si potesse disputare come se fosse una partita, ma è un ragionamento su quello che non sta funzionando, sui rischi che questo può portare, senza però escludere quelle che sono le incertezze da un lato, ma soprattutto anche i danni certi per altri versi che comporterebbe un'uscita dall'euro. Di questo parleremo in apertura. Parleremo anche di alcune simpatiche notizie che riguardano la gestione della spesa pubblica, dei soldi nostri da parte dell'ATAC, ma anche da parte del Comune di Palermo e dei consiglieri regionali della regione Liguria. Quindi oggi andiamo sostanzialmente nord, centro e sud, e come sempre la borsa: più 0,76% Milano, più 0,53% Parigi, più 0,60% Francoforte, più 0,40% Londra e più 0,66% l'America. Molto bene oggi, adesso un po' ridotto, Buzioni c'è, ma più 2,60% sopra i 13 euro per azione, Telecom Italia più 2%, UbiBank più 2, Generali più 1,90, Finmeccanica più 1,80, Mediaset più 1,5 come Mediobanca e Moncler, guadagna anche la Pop Milano l'1,30% come Enel e Tods, e Intesa San Paolo guadagna l'1% come Gitec. Chi va male? Autogrill meno 1,90, CNH meno 1,12 come Prismian, l'ex Pirelli Cavi, Mediolanum meno 0,80, Iux meno 0,70%. Euro, visto che ne parlavamo, a quota 1,38,43. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. La vicenda, partiamo come sempre dall'economia internazionale dell'Ucraina, ha una ricaduta, l'abbiamo visto anche in questi giorni, di carattere anche economico. Vi sono nuove sanzioni americane nei confronti sia dei funzionari del governo, 7 funzionari del governo russo, ma anche contro le aziende russe. Perché? Perché colpiscono l'amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin. Le altre 6 persone sono il vice premier Dmitry Kozak e poi altri funzionari di altissimo livello del governo russo, non vi leggo tutti i nomi. Gli ambasciatori dei 28 governi dell'Unione Europea intanto hanno dato il via libera alla fase 2 bis delle sanzioni contro la Russia. Sostanzialmente il divieto di viaggio sarà esteso a altre 16 persone responsabili di azioni contro l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. C'è già stato un primo elenco di 21 persone diffuso lo scorso 17 marzo. La nuova lista dovrebbe essere pubblicata domani sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Ancora, perché per quello che riguarda l'operazione Pfizer AstraZeneca ne parleremo più avanti. Su Alstom, dopo l'offerta di General Electric che è pronta a mettere sul piatto 13 miliardi di dollari, sono 9 miliardi e mezzo di euro, si è fatto avanti anche il colosso tedesco Siemens, pronto a pagare anche forse più degli americani, si ipotizza 15 miliardi di dollari, ma soprattutto probabilmente una proposta che verrebbe accettata in maniera sicuramente migliore dal governo francese, perché Siemens dice che vuole dar vita a 2 campioni industriali europei, uno dell'energia a guida francese e uno dei trasporti con guida tedesca. Ne parleremo più avanti, avremo un collegamento anche su Parigi su questo. Per quello che riguarda la Gran Bretagna invece, continua ad accelerare la corsa dei prezzi immobiliari in Gran Bretagna. Nei primi 3 mesi del 2014 il valore medio di un'abitazione è salito dell'8,7%, ma a Londra gli incrementi sono stati quasi doppi. L'Italia, il tesoro oggi ha fatto il pieno all'asta di botte a 6 mesi, il tasso è però leggermente risalito allo 0,59%, ha collocato tutti i 7 miliardi di botte a 6 mesi, 0,59 contro 0,50 di marzo. È un po' rallentata anche la domanda, il rapporto è sceso da 1,66 volte l'offerta a 1,6 volte. Lo spread è in lieve calo, ma è sempre sopra i 160 punti, a 163 punti. Ancora per quello che riguarda il governo, il ministro Padoan ha negato l'ipotesi oggi su alcuni giornali di una manovra correttiva. Ancora ha detto: aspettiamo il responso della Commissione Europea sul DEF e sulle coperture, mi pare prematuro parlare di problemi, ma se ci saranno anche le soluzioni. Padoan ha poi aggiunto che serve rafforzare ed estendere la spending review nella legge di stabilità del 2015 e individua nella lotta all'evasione fiscale il tema prioritario del semestre italiano. Brunetta invece continua a contrattaccare, dice: la realtà è incontrovertibile, la manovra correttiva sarà necessaria. Una buona notizia arriva invece dalla fiducia dei consumatori italiani che ad aprile ha toccato il livello più alto dal gennaio del 2010, 105 punti. Secondo gli analisti, cito per esempio il servizio studi Intesa San Paolo, Paolo Mameli, è dovuto anche, sarebbe dovuto questo aumento della fiducia agli annunci del governo sugli sgravi fiscali per i contribuenti che dovrebbero portare a un po' più di ripresa. Io andrei cauto su questo, però vedremo. Per quello che riguarda invece la vicenda all'Italia, la risposta di Etihad, quindi di Abu Dhabi, della compagnia degli Emirati Arabi di Abu Dhabi, arriverà, ma non oggi. Devo dire che però c'è uno sviluppo sul fronte delle banche creditrici di Alitalia, che sono soprattutto nei crediti a Intesa San Paolo. Sono pronte infatti ad affrontare l'ipotesi di convertire in azioni i 400 milioni di crediti che vantano nei confronti di Alitalia, se il paese, quindi sotto la guida del governo Renzi, farà la sua parte. Nel frattempo però è iniziata oggi la trattativa per il salvataggio di SEA Handling, il futuro soprattutto dei suoi 2300 dipendenti messi in mobilità. Sulla società controllata dalla SEA, quindi la società che gestisce gli aeroporti milanesi, pende una multa da 450 milioni di euro per aver ricevuto aiuti di Stato tra il 2002 e il 2006. Per evitare la sanzione si dovrebbe dar vita da luglio a una nuova società che si chiamerebbe Airport Handling, che dovrebbe riassorbire 1700 dei 2300 addetti. Allora, vedo che alcuni dicono, vabbè, ce l'avete con Zingales, volete sapere perché non invitiamo i teorici del no euro? Alcuni si sono candidati e quindi non li possiamo invitare, altri perché preferiamo mantenere, senza offesa per nessuno, il programma su un certo livello di serietà. Però prima di arrivare al libro di Zingales, che ripeto è interessante non perché l'abbia scritto Zingales, che è comunque un economista che stimo, ma è interessante perché non ha una posizione da Guelfi e Ghibellini, o sì o no, vorrei raccontare due o tre piccole notizie su come vengono utilizzati i nostri soldi, i soldi pubblici, per poi magari ricordarci che la gestione dell'euro ha sicuramente delle grosse responsabilità. Però attenzione, che questo paese ha perso tutte le opportunità che ha avuto in questi 10 anni di mettersi in riga con le riforme, con un sistema, con un mercato del lavoro più efficiente, non solo più flessibile ma più efficiente, con una vera lotta all'evasione, alla vera evasione, con una riforma seria della pubblica amministrazione, tagliando la spesa inutile. Tutte queste cose non è che siano colpa dell'euro. Comunque 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora, da dove partiamo oggi? Ma partiamo dall'ATAC, la mitica ATAC, che è costata in 10 anni un esborso di 1.800.000.000 di euro al comune di Roma. Allora, c'è un numero di cellulare che non possiamo dare, chiaramente, è un 348-0808 e poi le ultime tre cifre non le possiamo dare. Perché lo cito? Perché nei primi 2 mesi del 2013 appartiene a un dirigente dell'ATAC. I dirigenti dell'ATAC hanno i cellulari aziendali, e vabbè. Però nei primi 2 mesi del 2013 ha ricevuto una bolletta da 2.740 euro. Ora, l'ATAC cerca di capire perché, anche perché sapete quanto spende all'anno con i cellulari aziendali l'ATAC? 400.000 euro. Bollette pazze, sì, ho capito, sono praticamente dai 50 ai 70.000 euro a bimestre. Io capisco se uno deve usare il cellulare, per, è in servizio, ma insomma arrivare a 400.000 euro per un'azienda che ha un debito miliardario, beh, si potrebbe anche risparmiare. Però attenzione, perché già nel 2011, quando l'azienda era vicina al tracollo finanziario, e fu fatto un aumento di capitale da 570 milioni di euro, il debito ha cominciato subito a risalire all'ATAC, tant'è che in 4 anni le passività maturate nei confronti dei fornitori sono aumentate del 40%. Questo vuol dire che l'ATAC, ma anche e soprattutto le 28 società che orbitano sulla galassia del Comune di Roma, le municipalizzate, fatturano 5 miliardi e mezzo di euro, non riescono a gestire i loro conti. Ora non sto dicendo che il problema siano i telefonini aziendali, però forse dare qualche segnale anche ai dirigenti ed evitare che spendano 400.000 euro l'anno, non so, 2.800 euro di bolletta in 2 mesi sembra normale per un dirigente. Ma niente rispetto a quello che sta per fare il Comune di Palermo, perché nel servizio manutenzione strade, che pesa al Comune di Palermo per 15 milioni di euro, il Comune di Palermo spenderà 1.056.000 euro per un servizio di sorveglianza e monitoraggio delle sedi stradali e pedonali. Praticamente i cacciatori di buche, non di buchi, di buche. L'abbiamo visto di tutto in questi anni, eh? Abbiamo visto gli avvistatori di neve in Friuli, abbiamo visto il prototipo per l'avvistamento dell'usignolo in Lombardia, abbiamo visto il concorso per i maestri di sci da fondo nell'Etna, per cui non ci sorprendiamo più di nulla. Ma i cacciatori di buche costeranno devono dire dove ci sono le buche nelle strade di Palermo. Allora, come funzionerà? Perché neanche Bin Laden, neanche la caccia a Bin Laden. Allora, saranno divisi in 7 squadre, 3 tecnici di concetto e 3 autisti che si occuperanno delle superfici viarie. Come? Viaggeranno a bordo di macchine dotate di computer e telecamera per immortalare le buche. Gli altri dipendenti si occuperanno invece delle superfici pedonali, e quindi 4 tecnici di contatto si muoveranno a piedi, beh te credo, come vuoi muoverti sulle superfici pedonali, lungo i marciapiedi muniti di tablet e palmari per fotografare gli avvallamenti. Sui luoghi da monitorare, però, quelli che devono fare i cacciatori di marciapiedi arriveranno a bordo di 2 auto, perché mica vuoi prendere l'autobus o andarci a piedi, no, arrivi con 2 auto guidate da altrettanti autisti. Ora, dico, qualcuno immagino penserà anche a ripararle queste buche. Sì, la società RAP, che non è RAP ma è RAP, Risorse Ambiente Palermo, si impegna a risanare 400.000 metri quadri di asfalto. Il comune pagherà ogni metro quadro 14,50 euro, e per i marciapiedi invece costa di più, si farà pagare 46,90 euro a metro quadro. Ora voi mi chiedete, è tanto, è poco? Non si sa, perché come ha detto il ragioniere generale Carmela Agnello, non c'è nessun dirigente che attesti la congruità dei costi, e a naso, conoscendo questo paese, forse non saranno i costi minimi. Ho detto che facevamo centro, sud e nord, e andiamo alla regione Liguria. Perché? Perché c'è tutta la contestazione della Corte dei Conti sulle spese del 2012 dei consiglieri regionali. Beh, c'è anche chi ha messo uno scontrino da 95 euro al MUA, noto locale dietro via Roma, dove con la dicitura happy hour la Corte dei Conti gliel'ha bloccato, vorrei anche vedere. Però per quello che riguarda le spese bocciate, da parte del Leone la fa il PDL, 161.000 euro di spese bocciate, secondo classificato l'Italia dei Valori 78.000 euro, Lega e Federazione della Sinistra al terzo posto a 32.000 euro, PD a 24.000 euro e poi la lista Noi con Claudio Burlando a 18.000 euro e a seguire gli altri. La fantasia non manca in Liguria, abbiamo visto necrologi pagati come rimborso, molte voci di spesa non istituzionali iscritte dal consigliere, per esempio Franco Rocca, affitti per ufficio del partito, bollette Enel. Si è fatto anche rimborsare gli scontrini per decine di parcheggi a Zoagli, paese in cui vive, che insomma non è che parcheggiare a Zoagli sia difficilissimo, però. Ma poi c'è l'ex sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che fa una raffica di rinfreschi, perché è molto mondano, praticamente era un abbonamento suo all'hotel Savoia, e poi ha fatto anche l'aperitivo post-elettorale. Ma se hai già fatto le elezioni, ma che è l'aperitivo post-elettorale per l'ex capogruppo Matteo Rosso? Poi il PDL, molte spese sulla ristorazione, centinaia di taxi, rimborsi chilometrici, migliaia di scontrini di parcheggi. il sospetto degli inquirenti che, visto che non vengono indicate le causali, si tratta di ricevute fornite da collaboratori e segretari che non avrebbero il diritto al rimborso. Poi ce n'è uno che è un mito, Gino Garibaldi, purtroppo diciamo, non c'entra molto con il mitico Giuseppe Garibaldi del PDL, si è fatto rimborsare 8.000 euro di francobolli, che già dice, ma che cavolo fai con 8.000 euro di francobolli? Tutti comprati sempre nella stessa tabaccheria di San Salvatore di Cogorno. Il tabaccaio è il tuo migliore amico. Ma tu pensa a leccare 8.000 euro di francobolli? Cioè, non ti passa più. Quanti francobolli possono essere 8.000 euro? Non so. Anche fossero a 2 euro, sono 4.000 leccate di francobolli. Vabbè, biglietti aerei e ferroviari per Raffaele Della Bianca, ex PDL, poi riformista. Un viaggio a Cuba di Alessandro Benzi, ex FDS, Federazione della Sinistra, poi SEL, le 100 bottiglie di vino acquistate da SEL. Oh. E poi gli alberghi del PD di Antonino Miceli, viaggio a Cracovia di Alessio Cavarra, i pranzi genovesi giustificati, parchi Alpi Liguri di Gianfranco Manti. Allora, tre soli gruppi hanno accettato di restituire alcune spese contestate: la Lega 2.000 euro, la lista Biasotti ha rimborsato 4.000 dei 9.000 euro contestati e poi Liguria Viva di Ezio Chiesa ha rimborsato tutti i 6.000 euro contestati. Ora, la domanda è troppo facile, questa è colpa dell'euro? No, ma la gestione dell'euro qualche colpa ce l'ha, e adesso ne parliamo con chi, ripeto, io non ho nessun problema a dirlo, ha scritto un libro che mi è piaciuto, lo dico per la terza volta, perché non è né pro euro in maniera politica a prescindere, né per l'uscita dall'euro come la soluzione di tutti i mali. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Mentre vedo che molti di voi ci scrivono, beh, il comune di Palermo poteva farsi fare le segnalazioni dai cittadini, certo che poteva, invece che spendere 1.000.000, e altri mi fanno notare che il costo per asfaltare una strada a Vicenza chiedono 9 euro, quindi ben meno dei 14,50 euro chiesti dalla società Risorse Ambiente Palermo, e magari andiamo a cercare anche chi è, dov'è questa società. Detto questo, Luigi Zingales ha scritto un libro, lo stavo ricordando, si chiama Europa o no. Lo ringrazio per averci raggiunto in collegamento. Buonasera Zingales. Buonasera. Ancora qualche minuto di pazienza per le informazioni meteo e poi vorrei capire perché da un lato lei ritiene che sia stata sbagliata questa idea, che è un po' l'idea che ci ha portato nell'euro, che solo un vincolo esterno, una richiesta esterna avrebbe fatto fare a questo paese le riforme necessarie, e cioè il ragionamento, meno male che siamo in Europa così ci obbligano a fare quello che da soli non riusciamo a fare. Lei è anche molto chiaro nell'individuare i danni certi, penso al fallimento non tanto del debito italiano ma soprattutto dei colossi industriali italiani, Enel, Telecom, però è anche molto scettico in una gestione dell'euro che continui su questo piano, e invita a ipotizzare quantomeno un piano B, un piano di uscita, se le cose non cambiassero in Europa. Allora, quello che sappiamo che cosa non vada nella gestione dell'euro, che cosa abbia portato l'area dell'euro unica a livello mondiale alla seconda recessione economica che invece altri hanno evitato. Sappiamo anche però che se uscissimo dall'euro, fermo restando che non esistono casi precedenti, il nostro debito verrebbe rinominato nella nuova lira, e saremmo vicini a una condizione di default, di fallimento, quindi probabilmente verremmo esclusi per almeno pro tempore dai mercati. In secondo luogo, le prime 5 banche italiane hanno in portafoglio 200 miliardi di titoli di Stato e praticamente il sistema bancario nel complesso ha 400 miliardi di titoli di Stato e dovrebbero iscrivere a bilancio pesanti perdite, per cui andrebbero o aiutate o nazionalizzate direttamente. Non potrebbero più utilizzare i titoli italiani come collaterali nei contratti repo, adesso un elemento più tecnico. Poi sappiamo che i grossi gruppi industriali, Eni, Enel, Telecom, Finmeccanica, che hanno emesso tanto debito in valuta estera, euro o dollari, dovrebbero pagare appunto in euro e in dollari, però guadagnando in lire, e verrebbero praticamente... si troverebbero in gravissime difficoltà finanziarie. Infine ci guadagnerebbero solo chi, gli italiani che hanno grandi patrimoni investiti all'estero. Questo però non vuol dire eliminare dalla discussione il tema se si possa andare avanti con questa gestione dell'euro, non con quest'euro, con questa gestione dell'euro. Allora, professor Zingales, nell'ordine, perché non ha funzionato l'idea del vincolo esterno, se l'Italia si ritrova ancora indietro sulle riforme e l'euro ce l'abbiamo da più di 10 anni, e che cosa questo ha comportato? E poi vediamo di capire che cosa intende lei per piano B da comunque predisporre. Prego. Beh, innanzitutto bisogna spiegare perché la funzione ortopedica dell'Unione Europea e dell'euro sono state un errore. In una democrazia bisogna convincere la gente che le riforme vanno fatte, non forzarle, perché forzarle è fare come quei cattivi educatori che inducano la disciplina nei figli o nei ragazzi, mettendogli paura di qualcheduno, di qualche cosa. Il risultato è che poi dopo i figli nascono con delle fobie nei confronti delle persone con cui questa paura è stata creata, e oggi noi rischiamo una reazione anti-europea che butti via, come si dice in americano, il bambino con l'acqua sporca. Cioè abbiamo dei grossi problemi a livello europeo, però la Costituzione europea e soprattutto il mercato unico europeo, libera circolazione di beni, servizi e persone, è una grossa conquista da cui non vorrei mai tornare indietro. Il mio rischio è che invece queste pressioni diciamo, di reazione portino a un rigetto di tutto, incluso la parte buona dell'Europa. E quindi quando io dicevo confondere il termometro l'euro con chi ha causato la febbre, che non è l'euro ma è la gestione di questa Europa e dell'euro. Ecco, allora, sulla gestione io non vorrei però diventare ridondante, nel senso che è da 4 anni, da quando è scoppiata la crisi greca, che noi attacchiamo, critichiamo duramente la gestione a guida tedesca di questa Europa, tutta fiscal compact, 3%, e tutta punitiva, senza pensare alla crescita. Però mi faccia capire un'altra, e su questo so che siamo d'accordo, però perché lei dice che bisogna anche immaginare un piano B, e quindi non dico una lira, ma un euro per i paesi del sud? Beh, perché in realtà noi abbiamo scommesso, entrando nell'euro, di raggiungere una flessibilità tale da permetterci di aggiustare gli shock esterni, e l'esperienza recente ci fa vedere come questa capacità non c'è, non solo in Italia ma in tutta l'Europa del Sud. Cioè l'Italia, da qualche punto di vista, se vogliamo, è più colpevole dei suoi errori, ma guardiamo la Spagna, che è stata colpita da una bolla immobiliare in parte causata dall'euro, avendo fatto tutto giusto prima, si trova oggi ad arrancare, ad avere dei costi molto pesanti. Quindi questo significa che l'euro è stato creato, ha dei difetti di creazione, e questi difetti vanno risolti. Se non si risolvono, a un certo punto bisognerà pensare a un piano B, e il piano B di un euro del sud, secondo me, ha una sua logica. Allora, però lei dice, attenzione, perché questa c'è stata una cattiva gestione, ma ipotizzare un piano B, cioè che ci sia un euro A di serie A per i paesi del nord e un euro B di serie per i paesi del sud, non è molto simile a immaginare il ritorno alla lira? A questo punto comunque dovresti svalutare, avresti un debito che viene messo sotto stress per essere buoni, ma rischieresti appunto di avere un default sul debito. Le banche, che sono piene di bot, BTP, andrebbero salvate o nazionalizzate. Eni, Enel, abbiamo già. Cioè, non sarebbe la stessa cosa alla fine, Zingales? No, non sarebbe la stessa cosa, soprattutto se avviene attraverso un'uscita della Germania, dei paesi, diciamo, del nord Europa, che creano un euro del nord. Quindi noi rimaniamo dentro l'euro, ma con un euro che si svaluta rispetto al nord Europa, si svaluta rispetto al dollaro, si svaluta rispetto alla moneta cinese. Quindi in questo modo abbiamo il vantaggio di un recupero di competitività senza gli svantaggi di una transizione che potrebbe essere veramente traumatica. Cioè, senza arrivare alla lira, le dice, ci sarebbe comunque una valuta che rappresenta una parte dei paesi, o meglio, rappresenta tutti i paesi tranne alcuni che ne sono usciti. Cioè, lei farebbe uscire la Germania con una valuta più forte, se ho ben capito. Beh, la Germania, l'Austria, l'Olanda, cioè tutto il vero punto di debolezza, diciamo, è dove va a finire la Francia. Perché la Francia economicamente è un paese del sud Europa. Politicamente e psicologicamente si sentono un paese del nord Europa, tanto che chiamano noi Club Med, quindi la Francia secondo me è veramente il problema di questa frattura. Ed è il motivo per cui secondo me non si riuscirà mai a fare un vero euro di serie A o di serie B. Però detto questo, mi faccio capire un'altra cosa, Zingares. Io noto che in chi dice, ragionando, non facendo demagogia politica come altri così apprendisti stregoni, attenzione, così non possiamo andare avanti. L'idea però di arrivare a un euro di serie B o comunque a un euro A per alcuni paesi significa già dare per scontato o rinunciare all'ipotesi che si possa cambiare questa gestione dell'euro, cioè che non servirebbe tantissimo. Abbiamo degli esempi, cito uno su tutti, quello americano degli Stati Uniti, in cui una politica molto diversa, keynesiana o non keynesiana, non mi interessa, ha puntato molto sull'occupazione a costo di beccarsi un po' di deficit, un po' di inflazione, e adesso, solo quando la disoccupazione sarà tornata a livelli accettabili, si occuperà dei conti pubblici. Noi in Europa, su linea tedesca, abbiamo fatto l'opposto. L'importante era tenere a posto i conti pubblici, anche se beccavi la disoccupazione più alta degli ultimi decenni e la gente non consuma più perché va in deflazione. Ora, non basterebbe cambiare questa impostazione senza arrivare a 2 euro? Ma infatti io quello che sostengo è che il piano A è esattamente cercare di cambiare questo, però non ho molta fiducia che funzioni per un motivo culturale storico, cioè l'americano del Connecticut, quando sussidia il disoccupato della Louisiana, non dice che il disoccupato della Louisiana è pigro e quindi non merita di essere sussidiato, mentre il tedesco rispetto al greco dice che il greco è pigro. Anche se, dati alla mano, il greco lavora un numero di ore alla settimana più elevato del tedesco. D'altra parte il greco accusa il tedesco di essere nazista, quando in realtà il partito nazista ha più sostenitori in Grecia che in Germania. Quindi purtroppo esistono degli stereotipi che rendono difficile il concetto di Europa-nazione. Cioè, secondo me, per avere uno Stato che abbia anche la capacità di redistribuire, bisogna avere un sentimento comune e non ce l'abbiamo ancora in Europa. Secondo me lentamente si sta costruendo, ma l'euro è stata una forzatura in avanti, una corsa in avanti che secondo me oggi ha dei costi non indifferenti. Però mi scusi, Zingares, poi la risposta me la dà magari dopo il traffico. Quando nel 2003 andarono in difficoltà che non riuscivano a stare dentro i parametri dell'Europa, di Maastricht, Germania prima e Francia dopo, lì nessuno mise in discussione l'euro, cioè non si disse attenzione la Francia, la Germania si è fermata, non può stare nell'euro. Lì una certa comprensione, giusto o sbagliata che fosse, da parte degli altri paesi si è avuta. E cioè, la cosa che a me lascia un po' perplesso è che tutta la discussione sull'euro non tiene più, la stiamo facendo perché c'è un paese su tutti, perché poi l'Olanda e l'Austria contano poco in Europa come peso specifico, che è la Germania, che ha un tasso di crescita e di export altissimo, che consuma poco, quindi i salari sono molto contenuti come aumento e quindi aumenta la sua produttività ma non aumenta di pari passo i salari, con la conseguenza che porta in deflazione se stessa e tutto il resto d'Europa, perché se tu produci e incassi tanto ma gli stipendi non aumentano, è chiaro che i consumi non aumentano, l'unica soluzione sarebbe che la Germania tornasse a consumare tanto quanto, diciamo, guadagna. Ecco, mi sembra che tutta la discussione nasca solo perché in questo caso abbiamo un paese che corre, che si chiama Germania, e con qualche satellite, e gli altri no. Allora, non vorrei che fosse in qualche modo dare ragione a un'impostazione tedesca, dire vabbè, allora noi sa che c'è, ci facciamo l'euro di serie B. diretta ospite Luigi Zingales, autore del libro Europa o no. Come vedete, posizione molto laica, ma molto ragionata. Continuate a chiedermi perché non invito alcuni apprendisti stregoni, pseudoeconomisti, perché hanno già un'unica idea, che tutti i mali verrebbero risolti di questo paese uscendo dall'euro, che è una balla tra l'altro anche pericolosa, perché vuol dire poi non fare i compiti a casa. È come dire a tuo figlio che non è lui che è un po' somaro, ma è l'insegnante che sbaglia. Ecco, io so che questo paese, questa tentazione di dare la colpa agli altri, alla perfida Albione, al complotto pluto giudaico massonico, ce l'ha sempre avuta storicamente. Ecco perché non l'invito, è una mia libera scelta, non possiamo invitare tutti e non ho nessun problema a dirlo. Però Zingales, perché quando andarono in crisi Germania e Francia l'euro tenne, ci fu comprensione, adesso che la Germania tira e lascia dietro la pattuglia del Club Med, inclusa la Francia, bisogna ragionare per un altro euro? Perché in realtà nel 2003-2004 non c'era un problema di costituzione dell'euro, cioè quello che la crisi ha messo in evidenza è il fatto che l'euro è stato creato in un'area che non è un'area ottimale per avere la stessa valuta. Questo non si è verificato nel 2003-2004, si è verificato oggi e sono emersi dei costi o dei difetti di costruzione che o vanno risolti intervenendo pesantemente, non mi sembra che ci sia la volontà politica per farlo, oppure secondo me la moneta comune non funziona. Cioè il problema fondamentale è che il Sud Europa ha un ciclo diverso dal Nord Europa e negli Stati Uniti il Texas ha un ciclo diverso da quello che è il Massachusetts, però c'è una forte redistribuzione fiscale. Allora, o ci si accetta la redistribuzione fiscale, cosa che non mi sembra che nessuno voglia, oppure bisogna prendere le conseguenze. Non si può andare avanti in questa situazione in cui si vuole una cosa ma non la si vuole fino in fondo. E quindi, tornando all'esempio, o tu curi la febbre, diciamo, in maniera appropriata, oppure non puoi pensare, diciamo, di curarla solo parzialmente, perché allora il termometro continuerà a sembrarti il problema. Senta Zingales, però lei non ritiene che dopo un voto che avrà comunque una componente di euroscettici, per essere buoni, per essere eufemistici, molto alta, potrebbero cambiare le posizioni in Europa? Cioè, quello che mi chiedo io, perché Monti manco ci ha tentato, Letta si è distratto, adesso vedremo Renzi, ma io mi sono sempre chiesto, ma se qualcuno va veramente a Bruxelles e dice attenzione, così noi non riusciamo ad andare avanti, altro che fiscal compact, o iniziamo a fare delle politiche di finanziamento europeo controllate da Bruxelles, non vogliamo che la controlli la regione Sicilia l'utilizzo dei soldi, ci mancherebbe, la regione o altre regioni, però di obbligazioni europee, o permettiamo anche di avere un quantitative easing all'americano, cioè di stampare euro, o se no non reggiamo se continuiamo a occuparci solo del 3% e solo del fiscal compact. Nessuno ci ha mai provato a dire guardate che a questo punto iniziamo una procedura che avrebbe un effetto disastroso anche sulla Germania. Ecco, lei non ritiene che la strada politica, un po' per l'esito elettorale, un po' se vai a battere i pugni, sia ancora percorribile? Ma guardi, innanzitutto secondo me ci vuole una leadership del Sud Europa che finora non si è creata, e secondo bisogna avere una logica, cioè se noi andiamo dai tedeschi e diciamo noi vogliamo condividere i nostri debiti con loro, loro ci dicono no e hanno ragione, nel senso che perché loro devono condividere dei debiti passati che noi abbiamo fatto, tra l'altro creando un pessimo precedente per i debiti futuri. Se invece uno va lì e gli dice guardate che un elemento essenziale, la teoria economica è molto chiara, un elemento essenziale per un'area comune valutaria è quello di avere un meccanismo di redistribuzione dei costi, ad esempio un meccanismo di assicurazione della disoccupazione a livello federale, come hanno gli Stati Uniti. Allora, di fronte a questa domanda, tra l'altro, questo meccanismo non è un meccanismo di distribuzione unilaterale, perché ricordiamoci che appunto nel 2004-2005 la Germania aveva più disoccupati in termini percentuali dell'Italia o della Spagna, quindi in quel momento il meccanismo aveva funzionato in direzione contraria. E questo secondo me è l'elemento essenziale per sperare di mantenere una valuta comune. Ci vuole una leadership a livello europeo, o meglio sud europeo, che metta in chiaro questo. E questo qui è mancato, perché secondo me tutti si sentono in colpa o non hanno una visione sufficientemente ampia. Io spero che questo libro contribuisca a creare questa visione. Su questo, fermo restando il punto che io sono d'accordo che si debba cambiare la gestione dell'euro, questo non vuol dire però non fare i compiti a casa, come diciamo sempre. Cioè no, infatti il titolo dell'Europa o no è che l'Italia deve cambiare, o Europa o no, l'Italia deve cambiare, quindi non è il problema. Non far passare l'idea che usciamo dall'euro, il problema della pubblica amministrazione inefficiente e improduttiva l'abbiamo risolto, il problema dell'evasione fiscale l'abbiamo risolto e il problema anche di un mercato del lavoro non flessibile, non meritocratico l'abbiamo risolto, perché questo non è colpa dell'euro. C'è una domanda che arriva invece al 349-238-6666 ripetutamente e dice sostanzialmente si chieda se si stava meglio prima o dopo l'euro, e cioè il tema dell'impoverimento. Io su questo sono molto preoccupato, perché qui ci si dimentica che nel frattempo non c'è stato solo l'euro, è entrata la Cina nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, è cambiato il mondo fuori, per cui anche se tu ti riprendi la lira, negli anni 90 non avevi la Cina, non avevi l'India, non avevi il Brasile, non avevi le Filippine. Su questo la presa, diciamo, emotiva del dire comunque eravamo più ricchi prima dell'euro non rischia il cortocircuito sull'euro stesso? Certamente, difatti io nel libro spiego molto chiaramente come la causa del nostro impoverimento non sono assolutamente dovute all'euro. Oggi in questo momento di crisi l'euro ha peggiorato la crisi, però la crisi italiana comincia nel 95, noi abbiamo smesso di crescere in termini di produttività dal 95, questo è il nostro vero problema. Allora, mi dia una così, visto che stiamo in finale, prima di arrivare alla borsa, una possibilità. Da qua, lei stima nel libro, se ho ben visto, 18-24 mesi il tempo massimo per avere una nuova impostazione dell'euro senza arrivare alle estreme conseguenze di due valute. Ci si arriva in 18, quante possibilità dà tra 18-24 mesi? Ma vediamo dopo le elezioni europee che consenso si forma. Perché secondo lei solo diciamo dopo un esito elettorale negativo dipende anche da che posizioni prendono gli euroscettici. Se prendono delle posizioni estremiste fanno solo che peggio, se invece questo aiuta a ripensare in maniera critica l'Europa, perché la colpa degli euroscettici secondo me è degli eurofanatici, cioè dopo tanto eurofanatismo non ragionato è inevitabile, cioè quelli che dicevano va comunque bene così, teniamoci l'euro. Allora lo dico a chi scrive, la proposta di Zingales, però mi corregga se sbaglio, non è di avere un euro di serie B per i paesi del sud, è di far uscire dall'euro i paesi eccessivamente forti, penso alla Germania, Austria e Olanda, per cui noi ci terremo l'attuale euro. No, questo lo dico anche per il debito italiano, il debito pubblico, il debito dei grandi gruppi, il debito delle banche, e avrebbero una valuta più forte quelli che escono, ho capito bene? Ha capito benissimo. Ecco, che è già una prospettiva leggermente diversa. Questo farebbe venire meno il timore che un debito che hanno Eni, Enel, Finmeccanica, Telecom o i 400 miliardi di titoli di Stato che hanno le banche in pancia, titoli di Stato italiani che hanno le banche in pancia, le banche italiane, non verrebbero svalutati, cioè resterebbero in euro. Ho capito bene, giusto? Ha capito perfettamente. Professor Zingales, ci risentiamo dopo le elezioni, vediamo poi che cosa si può leggere da queste elezioni. A mio avviso è chiaro che andare a una lira, a un euro svalutato, sarebbe un disastro vero per le banche, per i gruppi, per il debito, ma mi è anche altrettanto chiaro che continuare a gestire l'euro in questo modo è un disastro per i cittadini e, ripeto, è la gestione dell'euro, non l'euro stesso. Grazie a Luigi Zingales, che è editorialista del Sole 24 Ore e insegna finanza alla Università di Chicago. Scrive un ascoltatore che si stava meglio al tempo dei sesterzi, non lo so, non c'ero, però attenzione, in realtà la proposta di Zingales è proposta, insomma l'analisi di Zingales è diversa, cioè se tu non riesci come paese che corre più degli altri, mi riferisco alla Germania, a redistribuire, quindi l'esempio degli stati americani era perfetto a mio avviso, ah bene, esci tu dall'euro e ti becchi tu un euro bis molto, magari che vale il 50% di più dell'euro attuale, a questo punto però non hai i problemi di una rivalutazione in diversa valuta o svalutazione in diversa valuta del debito degli altri paesi. Più 0,34% la borsa nel finale, cambiamo tema, più 0,38 Parigi, più 0,50 Francoforte, più 0,20 Londra, più 0,30 New York in questo momento. Autogrill -2,10%, Prismia -1,70%, CNH -1,40%, Yux -1%. I peggiori titoli, i migliori, Buzzi Unicem +2% come UbiBanca e Telecom Italia +1,5% come Mediaset. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, affrontiamo la borsa, poi la vicenda del Stom e il dato complessivo su questo boom di proposte, di fusioni, acquisizioni dopo il caso Pfizer-AstraZeneca. Dei titoli dicevamo, allora, come sempre la borsa con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, e partiamo appunto dai movimenti più forti. Leonora Micheli, buonasera. Buonasera. Dicevamo di Buzzi Unicem +2,12%, UbiBanca +2%, Telecom Italia +1,5% come Mediaset, Generali +1,30%, Pop Milano +1,20%. Poi per quello che riguarda i titoli, Fiat molto ritracciato +0,30%, Autogrill invece -2,10%. Autogrill da un lato e dall'altro Buzzi Unicem e Telecom. Autogrill -2,10%. Autogrill in verità è dallo scorso 9 di aprile che più o meno ha imboccato la strada del ribasso, ha corso molto nei mesi precedenti ed evidentemente è sotto diciamo la pressione dei realizzi. Così i titoli sono andati giù, non ci sono poi motivazioni particolari se non al limite il fatto che può essere penalizzata dai movimenti valutari. Per quanto riguarda Buzzi c'è un po' di attenzione ovviamente a tutto quello che è il settore del cemento, dove ci potrebbero essere eventuali operazioni straordinarie con Buzzi che potrebbe acquistare anche asset di altri gruppi, ma è tutto ovviamente da vedere. Per quanto riguarda invece Telecom è andata bene, anche se ha rallentato sul finale +1,4% nel durante della seduta, saliva di oltre il 2%, ancora una volta si continua a scommettere sulle novità della compagnia e soprattutto sul fatto che ormai è sempre più una public company dopo l'esito dell'ultima assemblea e evidentemente ciò piace al mercato. Altro titolo, Monte dei Paschi di Siena, ci sono notizie anche nel senso che non si è arrivati al quorum, l'assemblea è slittata domani, occorreva avere il 50,1% del capitale, c'era solo il 9% del capitale, non si è presentato, lo dico prima che me lo chiediate, Beppe Grillo, che aveva annunciato l'intenzione di partecipare all'assemblea. Domani basterà il 33% del capitale. Monte dei Paschi e magari anche Mediolanum, visto che c'è l'assemblea anche per Mediolanum domani. Sì, in questi giorni infatti è un periodo ricco di assemblee e domani c'è quella di Moncler, di Mediolanum e anche di MPS in seconda convocazione, pare che domani vada anche Beppe Grillo. Per quanto riguarda MPS oggi saliva, poi alla fine praticamente ha chiuso piatto, ovviamente c'è molta attenzione sulla banca senese, si attendono novità dall'assemblea di domani e soprattutto si cercherà di comprendere quali saranno le mosse dei soci che hanno fatto scudo, hanno fatto quadrato con la fondazione, ossia se effettivamente parteciperanno all'aumento di capitale e conseguentemente si manterranno al 9% o piuttosto scenderanno, e poi si cercherà di capire anche le mosse di fondi come BlackRock, che intanto proprio nei giorni scorsi è sceso da oltre il 5 a poco più del 3%. Poi come hai detto tu, Mediolanum anche in questo caso c'è grande attenzione, domani magari i membri della famiglia Doris daranno qualche aggiornamento su come procede la raccolta o sulle previsioni per fine anno. Intanto oggi i titoli hanno ritracciato e perso lo 0,8%. Vorrei chiudere su Fiat, nel senso che anche Pirelli Cavi ha perso l'1,70%, CNH Industrial ha perso l'1,40%, così cito nel complesso anche Yux -1%. Fiat oggi in evidenza, poi è un po' ritracciato, +0,30%. Fiat ci si attendono novità, innanzitutto il 6 maggio ci saranno grandi novità visto che c'è la presentazione del business plan, del piano industriale dell'azienda, ma soprattutto Automotive News, una rivista specializzata nel settore automobilistico, ha rilanciato l'indiscrezione che potrebbe essere scorporata Alfa Romeo sull'onda di quanto già avvenuto per Maserati e per Ferrari, quindi questo probabilmente porterebbe fuori un po' di valore della società, e per questo i titoli oggi andavano molto bene. Poi, come hai detto tu, hanno ritracciato un po' sul finale, hanno chiuso alla fine in progresso solamente dello 0,29%. Miglior titolo in assoluto Telecom Italia Media sul risparmio più 18%, poi Mondo TV più 11, Mondo TV France più 11, e Gruppo L'Espresso più 3,90. Peggior titolo invece in assoluto, a parte le indici sul risparmio non convertibili, la SIAS meno 3,60, Premuda meno 2,90, Class Editori meno 2,50%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso apriamo una pagina dedicata alle operazioni di fusione, offerte, acquisizioni, scalate. Devo dare una risposta velocissima però a chi sta scrivendo ancora sulle tesi di Zingales, l'economista, il nostro ospite nella prima ora del programma. Allora, è chiaro che se tu avessi un euro da cui esce la Germania, l'Olanda e l'Austria, questo euro si svaluterebbe, è vero, perché non avresti più un partner così forte, ma si svaluterebbe nei confronti del dollaro, dello yen, della sterlina, dell'euro tedesco, ma resterebbe in euro. È una cosa diversa se uscissimo noi e dovessimo ridenominare tutto il nostro debito, quello dei grandi gruppi, quello in pancia alle banche, in lire. In quel caso tu avresti una normale svalutazione sui mercati valutari dei cambi, per cui l'euro non sarebbe più a 1,38, sarebbe probabilmente a 0,90, non lo so, ma non cambierebbe nulla sulla tenuta, perché il tuo debito espresso in euro resta formalmente in euro. Lo dico chi scriveva. Adesso occupiamoci invece della Francia, dove dopo l'offerta, su cui i francesi per essere buoni hanno storto il naso, è arrivata sempre su Alstom un'altra offerta, questa volta tedesca, della Siemens, e lì probabilmente il naso lo storceranno un po' meno. Pades American, potremmo dire con un titolo, perché l'offerta della General Electric è l'Eliseo, e quindi il governo francese ha subito detto beh, insomma, no. Invece è arrivata un'offerta da parte di Siemens, che sarebbe pronto a mettere sul piatto gli stessi, se non di più, soldi del General Electric. La General Electric ha proposto 13 miliardi di dollari, 9,4 miliardi di euro. Siemens potrebbe proporre 15 miliardi di dollari, per dare però vita a due campioni industriali europei, ecco perché forse piace di più ai francesi. Uno dell'energia guida Siemens e uno dei trasporti con leadership Alstom. Ricordo che Alstom ha dentro di sé la costruzione dei treni TGV, di quelli italiani di Italo, capitalizza 8 miliardi e 300 milioni di euro, ma ha chiuso con un rosso di 750 milioni di euro e ha 98 mila dipendenti. Siemens è invece il primo gruppo industriale europeo, ha 76 miliardi di euro di giro d'affari, 362 mila dipendenti. Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, buonasera. Buonasera a voi. Un rapido aggiornamento, poi parleremo con Alessandro Praterotti di questo mare di questa febbre da fusione, visto che oggi c'è anche Pfizer che lancia un'offerta sulla rivale AstraZeneca negli Stati Uniti. Ma insomma, ha più possibilità la Siemens, meglio i tedeschi degli americani? Ma francamente non lo so, mi sembra che la battaglia sia molto aperta. Questa mattina il presidente francese Hollande ha ricevuto all'Eliseo il presidente di General Electric, Jeffrey Immelt, e apparentemente l'incontro è andato abbastanza bene. Immelt ha parlato di un dialogo aperto, amichevole e costruttivo. Alle 6, mentre siamo in onda in questi minuti, c'è l'incontro con il presidente di Siemens e a seguire con Martin Bouygues, che è l'azionista di riferimento di Alstom. La partita mi sembra molto aperta, nel senso che se è vero che ci sono delle resistenze nei confronti degli americani, ci sono grosse perplessità anche nei confronti dei tedeschi, per quanto riguarda in particolare alcune sovrapposizioni produttive tra i due gruppi nel settore energetico, che potrebbero in prospettiva provocare dei tagli di organici, di attività nel gruppo Alstom. Quindi mi sembra, come dire, che la partita sia aperta. L'obiettivo del governo è sicuramente quello di ottenere un sensibile miglioramento da entrambe le offerte. tenendo presente che quella di Siemens in realtà non è ancora una vera e propria offerta, c'è una lettera di intenti, e infatti il presidente di Siemens ha fatto sapere che solo dopo l'incontro con Hollande decideranno se e come formalizzare una vera proposta. Però Marco, per concludere, anche tu dai abbastanza per certo che anche il governo francese non abbia ostacoli nel cercare un compratore o un socio forte, diciamo così, per Alstom? No, direi di no, mi sembra che non ci siano molte alternative. Alstom è sicuramente un'azienda tecnologicamente molto interessante, ma piccola, molto concentrata sul mercato europeo, in difficoltà soprattutto sul fronte delle centrali idroelettriche, e quindi ha sicuramente bisogno di un forte partner industriale o finanziario. Quindi l'idea che Alstom debba essere spezzettata e che qualcuno si debba comprare la parte energetica mi sembra questo abbastanza scontato. Mi sembra una battaglia all'ultimo numero e all'ultimo minuto, visto che tra l'altro si dovrà decidere relativamente in fretta, perché l'annuncio è che dovrebbe esserci più chiarezza sulle prospettive di Alstom, certo, entro mercoledì mattina. Quindi tutto è rinviato, o meglio l'appuntamento finale è mercoledì mattina. Grazie Marco Mussonè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Parliamo però della febbre d'acquisizioni dopo il traffico. Mi scrive un ascoltatore: ho sentito che Zingales l'ha umiliata per bene. No, ha sentito male, proprio mi può umiliare quando ci mancherebbe, però ha sentito male, ha sentito un altro programma. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Non c'è solo, dicevamo, l'offerta da 15-13 miliardi di dollari americana, General Electric o eventualmente tedesca della Siemens su Alstom, ce n'è un'altra ancora più colossale. La Pfizer, colosso farmaceutico, ha offerto quasi 99 miliardi di dollari, 98,7 miliardi, per acquisire la rivale AstraZeneca. Il CDA, il consiglio di amministrazione di AstraZeneca, ha detto di no. Però il dato interessante è che, come segnala il Financial Times, il valore delle fusioni e acquisizioni a livello mondiale ha raggiunto il picco del 2007, ossia nell'ultimo anno 1.200 miliardi di dollari, più 42%. La differenza è che questa volta rispetto al 2007 si paga meno in contanti e più in azioni. Allora, su questo vorrei ragionare con Alessandro Paterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Può sembrare strano, visto che abbiamo fatto una parte del programma Euro sì o no, che un'Europa in estrema difficoltà, in deflazione, con i consumi che non ci sono, assiste invece a livello mondiale al record dal 2007 in fusioni e acquisizioni. Tra l'altro abbiamo visto anche noi i nostri ingressi, penso al capitale delle banche, penso a BlackRock e altri, sì, ma e altre operazioni che abbiamo commentato. Ma perché così tante fusioni e acquisizioni? Questo è un altro punto. Intanto diciamo questo. Primo elemento, l'Europa non è estranea a questo turbine di fusioni e acquisizioni. Tant'è vero che se andiamo a guardare i dati dal 31 dicembre dell'anno scorso a oggi sostanzialmente, vediamo che ci sono gli Stati Uniti si confermano in testa con 389 miliardi di dollari di operazioni annunciate, mentre la Francia, e questa è un'altra cosa che ci riporta dal Stom, 117 miliardi di dollari di euro, scusatemi, di operazioni annunciate dall'inizio dell'anno. Questo dà l'idea di che anche l'Europa è completamente parte di questo processo, che normalmente viene dominato dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, dal Giappone. Quest'anno c'è l'ingresso della Cina, terzo paese per numero di operazioni, e qui ci permette di introdurre il secondo concetto: perché ci sono le fusioni. Qui possiamo sintetizzarlo in tre ragioni per i nostri ascoltatori. Uno, in un mercato che è sempre più difficile, caratterizzato usciamo da un periodo di crisi finanziaria e di recessione, l'obiettivo di tutte le imprese, soprattutto quando si tratta di multinazionali, è sinergie e taglio dei costi, essere competitive. Questo su che cosa? E tra i costi c'è la ricerca, non è un caso che sia proprio il settore farmaceutico e quello delle telecomunicazioni a guidare questo processo. Poi c'è l'energia, come abbiamo visto sulla Stone. Per quale motivo? Lo stesso, sappiamo tutti che le nuove energie, lo shale gas chiede nuove turbine a gas per poter bruciare, sta cambiando la geografia anche delle materie prime, da dove vengono prodotte e come vengono utilizzate, quindi questi tre settori stanno un po' dominando la scena. Secondo punto che metterei in evidenza, i prezzi di borsa. Ricordiamoci che dopo la crisi del 2007-2008 noi siamo venuti fuori con i titoli delle aziende quotate che erano ai minimi termini nel 2010. Dal 2010 parte il grande rally che ci porta fino ai giorni nostri. Oggi siamo tornati su valutazioni molto elevate, se non quantomeno valutazioni quando sono, non sono i prezzi, le valutazioni sono un rapporto sostanzialmente, ecco. Mentre invece sia in termini di prezzi che in termini di valutazioni sono a livelli che permettono di utilizzare le azioni per fare fusioni. Questo è un altro mito. Quando noi sentiamo un'operazione che vale 100 miliardi, non è che ci sono 100 miliardi di dollari che passano da un conto corrente all'altro. C'è pagamento in azioni, c'è pagamento in contanti, ci sono altre forme per pagare. Terzo ed ultimo punto, io concluderei con questo, i motivi, quello che dicevo, i nuovi attori. Cina e Medio Oriente stanno facendo da nuove forze che spingono la concentrazione. La Cina, lo sappiamo, sta comprando aziende, infrastrutture, non soltanto nei mercati asiatici, come è già avvenuto, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, dove con grandi difficoltà, come hanno gli stessi Stati Uniti per operare, per comprare in Francia, anche ai cinesi spesso gli si fanno proprio delle barriere. Allora, tu hai ben illustrato i tre motivi e il fatto che in cima, insomma, a questa classifica ci siano gli Stati Uniti, ma anche l'Europa e poi la Cina, e che i settori più richiesti siano farmaceutico, telecomunicazioni e energia. Però questo riguarda poi complessivamente tutti i vari settori industriali. Domanda, a questo punto però, se questo processo, che ormai è già stato, perché il dato che citavo del Financial Times è del 2013, quindi il record l'abbiamo già toccato, continuerà, possiamo dire che cambierà non solo la mappa geografica, ma anche il riferimento, il benchmark, diciamo, delle dimensioni. Voglio dire, se tu continui a agglomerare, a creare nuovi attori, quelle che era, diciamo, la dimensione da raggiungere 5 anni fa per un operatore del settore energia, telecomunicazioni o farmaceutica, continua a alzarsi l'asticella, perché a questo punto tu dici, bene, le dimensioni che sono utili per concorrere con il numero 1, il numero 3 o il numero 2 sono cambiate. Ma io direi questo, sono due fattori concorrenti. Uno è di filosofia industriale. Il modello di multinazionale, quanto è valido oggi, di multinazionale soprattutto conglomerata, cioè con attività, con 10 attività diverse all'interno dello stesso gruppo. Il livello, come dicevo prima, di costi sulla ricerca, di sviluppo e di mercati fa sì che la specializzazione comincia ad essere necessaria, molto più di quanto lo sia stato in passato. Una volta si compravano attività diverse per fare da ombrello e il mantra era diversificare. Perché? Perché se un settore scende non è un altro che tiene. A questo punto si sa che in alcuni settori, vedi ad esempio l'energia, non c'è stagione. Lì l'energia ci serve sempre. E anche la farmaceutica e biomedicale. Esattamente, tant'è vero che questi settori tu lo vedi molto più sensibile a questo processo. Quindi cominciare a fare una grande specializzazione. Il modello proposto, tanto, diciamolo chiaramente, tanto da G quanto da Siemens per l'Alstom, qual è? Io mi prendo tutte le attività in un settore diventando un campione, tu ti prendi, caso Siemens, ti prendi le mie, perché la Siemens darebbe le attività nel settore dell'energia alla Stom e si prenderebbe quella nel settore del trasporto. Diventerebbero due campioni, uno dell'energia e l'altro del trasporto ferroviario. Sorge una domanda: ma che si sta facendo politica industriale in Europa senza che noi veniamo interpellati? Stanno forse nascendo dei colossi verticali? Dove sono gli stati a decidere, non le imprese? Io faccio un'ultima notazione: quando Mussanè raccontava che Hollande è intervenuto, non dimenticato, ma insomma, questo lo dico simpaticamente, il governo francese non ha una sola azione della Stom e la sta gestendo per avere il prezzo più alto. A quale titolo? E a integrazione di questo, è appena uscita un'agenzia, lo stesso presidente François Hollande poco fa ha detto: lo Stato ha ovviamente da dire la sua sulla cessione di Alstom, pur non avendo. Sarebbe come se Renzi dicesse: lo Stato ovviamente ha di dire la sua sulla cessione di un gruppo privato. No, ma il punto è diverso, è che qui se noi entriamo con le poste con 500 milioni di 300 milioni di euro in Alitalia, ci dicono che aiuto di Stato e dobbiamo bloccarli. Qui arriviamo che un governo tratta una fusione senza nemmeno avere le azioni, mi sembra un passo ancora più lungo. E torniamo da dove eravamo partiti, a quale Europa vorremmo. Grazie Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore. È tutto per questa puntata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente. Refozert e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Vi ha presentato Focus Economia.